del subattore, quando entrava lui, e quando qualche volta diceva chi era o qualcuno, chiamavano nessuno, poi ma non credo fosse questo, nessuno non mi dice niente, a parte questo particolare che chiamavano nessuno, questo subattore, il direttore gli ha preso per il culo tutta la frequenza, per tanti anni non si è mai capito che fosse, almeno, meno, si pensava, che fosse Briscolone da Badesi, e io Briscolone l'ho anche frequentato, conosciuto e frequentato anche in tempi, sto parlando degli anni, primi anni 80. Capito? Per cui diciamo che sì, ma poi con Mario è stato anche in M2, con Mario ci usciamo assieme, con Mario siamo amici da tanto, siamo più di 20 anni che non sappiamo niente, uscivamo assieme, amici della frequenza, dai. E lui abitava lì nell'altra versione di Anapoli, mi ha messo la via, mi pare, boh. Sì, ma non c'è più nessuno ormai, ma faccio un pacco con tutte le cose che devo sistemare, la soldino, faccio che si sia favore, non ci penso più. Sì, conviene, se lo vuoi riparare vai da lui già, il posto più vicino, ti fa una passeggiata in macchina, infatti intanto non è che siamo molto lontano, quanto saranno? Saranno 60 km da Sassari, 70, 80 massimo, non di più, dopo buon'ora, ma dai, in quella zona lì. Sì, è vero, vabbè, comunque. Sì, io mi ricordo anche di Subastore, io ho conosciuto l'amico di Subastore che andavo insieme, ed era uno che abitava in via Lucio Civi, l'amico, non quello Subastore, quello che parlava in maniera sporca, no, lui non parlava, lui anzi non parlava proprio al malatino, ma andavano insieme a farsi delle risate, perché lui già lo sapeva come parlava Subastore, Antonio si faceva chiamare di nome, se ricordo bene. Mi aveva raccontato che era lui che andava in giro, però non mi ha mai svelato chi effettivamente fosse questa persona che si faceva chiamare Subastore, non me l'ha mai voluto dire, purtroppo non me lo potrà mai dire più, perché è già roba di 7 anni che è morto, poveraccio, abitava in via Lucio Civi, abitava, faceva anche il coso, lavorava in campagna, mia agente della campagna, come si chiama? Baracello era anche, per cui non me l'ha mai voluto dire chi era effettivamente, però mi aveva confermato che ci andava lui insieme e si faceva tante di quelle risate, era bravo lì, Dubulo, gli permetteva di dire certe cose, e beh, la macchina era sua, il baracchino era suo, io cosa potevo fare? Anche quello è vero. Sappiamo chi è questo amico che è intervenuto poc'anzi avanti? Mai mi riconosci tu. Ciao Giulio, ciao Bruno. Ciao Tonino, bene, mia Tonino, mi Bruno, questo è sempre stato un amico, me lo ricordo quando aveva lui il Galaxy con un microfono tanne più tre, che allora abitava nell'altra zona, non dove abita adesso, ma quando era ragazzo, sto parlando, era una bomba atomica, il Tonino. Riusciamo di nuovo con quella potenza là, diciamo. Adesso ho usato un altro apparato, stazione fissa, il presidente. Comunque come radio mi hanno detto che è abbastanza buona questa qua, tutto qua. Sì, Bruno, senz'altro in macchina perché lo sento un po' più bassino. Sì, mi sto scendendo un attimino di quel X, sono arrivato da Bricomen che devo prendere la tesseria, un ricambio, e poi ci sentiamo dopo, ci sentiamo Tony. No, io di Donino mi metto un particolare, giuro, un particolare me lo ricordo bene. Tony, se ti ricordi dove era la sede che volevamo fare noi via San Francesco, ti dico un particolare, ti ricordi che una volta stavano interessando per fare una sede via Bucari? Ma te la metti che veniva un tipo che non ti voleva piantare antenne, voleva far cudillo che te la buttavano da stato per lì, Tony. Bruno, devi ricordare cose, a me non è così brutta, per carità, no, guarda, sono io più calmo, però sono più pericoloso adesso, sono calmo, tranquillo, non voglio mettere con nessuno, mi conosco troppo bene, meglio di no, mi con ricordiamocela cose belle, Bruno, dai, che sono, bisogna essere serene nella vita, non essere sempre nervosi, incazzate, no, non verrà bene. Gesù, ma te ne mangi, Giulio, cosa andrà a pensare che cavolo? Boh. Ma queste sono cose belle, sono cose da ridere, no, ragazzi, siamo fuori. Bruno, hai ragione, però il tempo ormai, il tempo viene e passa, si dice a stare così. Vabbè, tu dici, ma sei più pericoloso, tu dici Tony, ma non è vero, io non ci credo. Sì, solamente più assennato, perché tutti siamo più assennati, arrivati alla certa età, ovviamente. Anch'io quando ero più giovane non mi si bastava la bocca sotto un naso, ma nella mano. Però ti devo dire una cosa, che non sono stato mai uno prepotente, ho dato fastidio, no, questo non mai. Però, ma sai perché non ho mai avuto prepotenza? Perché mi temevo io stesso, perché sapevo, mi passavano 5 minuti, non di più. Dopo mi passava tutto e me ne dimenticavo anche. Però lo riflettevo, avevo questa virtù, diciamo, di riflettere prima di arruinarmi, ci penso, e allora a volte facevo la figura dello stupido, lasciavo perdere e me ne andavo. Però io sapevo che se reagivo ero pericoloso al virus, non a proponente, pericoloso al virus. Per cui poi si cambia e tutto diverso, Tony, vai. Ma io Giulio dico questo, che sì, sono più pericoloso adesso, perché ripeto, adesso mi farà proprio con malizia, ma fa male, prima mi farà come ti andava, no, adesso è diverso, sono più maturo, sono più dove far male, capito? Quindi no, ma non mi interessa, io che cose, io voglio stare tranquillo, sereno, evito, molte volte evito perché non ne vale la pena, capito? No, perfetta. Fuggi secondo chi trovi, che se ti denuncia e poi ti dimoni l'avvocato, i piedi di rama, lasciamo perdere, dai. Dovrei essere proprio costretto, ma penso di non arrivare mai a questi limiti. Dai, un padre, facciamo di altre cose più belle, che sembra fa vedere maniaco, non so, comunque. Io mi sono preparato già 4 belle tese, da 1,5 chilometri di pasta al forno, ho messo in freezer, ho detto beh, così quando rientro un po' tardi che faccio qualche lavoretto, ce l'ho già pronto, scongelo, microonde e poi metto in forno e vai. Hai fatto bene, io non credo, Tony, hai fatto bene, l'unica cosa è quella oggi. Cosa stai lì a pensarci due volte? Oh, anche a me mi dicono, ma non sei ingrassato un po' di gruppo? Peso 80-85 kg, una cosa così. Però se mi devo mangiare qualcosa in più me la mangio, non è che sono lì a serare le rughe. Guarda, se per caso mi dovessi avanzare, ecco, tanto per fare un esempio, un po' di pasta e fagioli dalla notte, all'indomani mattina, anziché mangiare i biscotti con il latte, come solitamente faccio, o lo yogurt con i biscotti, mi mangio la mezza e fagioli, mio Tony, non ti crede che ci sto a pensarci delle volte, no? Io sono così, non è che non me la potete andare della linea, anche se sta incominciando a uscirmi una piccola pancetta, però, no, vabbè, mi dovrei regolare, diciamo, dai, perché all'età che ho è meglio regolarsi anche, ma non per dire show, quando per cui mangio e basta, Tony. Beh, Bruno se ne è tratto per come comunque, sì. E me, Giulio, altrettanto dico anch'io. A me se mi piace una cosa me la mangio, non mi ha fatto nulla. Però, ripeto, dato che ho il diabete, me lo controllo, capito. E siccome quando sono molto basso, dico, beh, questo posso anche abusarne e mangiare un pezzo in più. Quindi non è che... Ormai, diciamo, la mia linea è questa. Non devo pensare né a dimagrire, né tanto... Non mi manca niente, Giulio, non mi manca nulla. La compagna ce l'ho e quindi problemi non ne ho. Quindi, anche devo mettere conto. Oh, io non me ne fatti nulla, va. Tanto. E ripeto, i miti me ne tocco ogni tanto, ecco. Mi viene a voglia di fare una cosa. Tanto ci trovo, me ne faccio 4 zitti. Quando l'ho fatto vedere, l'ho fatto la foto, a mia sorella gli ho mandata. E mi ha detto, cavolo, troppo grandi queste teglie, dovete farti le piccoline, ma cosa si risente? Invece ho regalato una teglia a mio fratello, tu mi non trovi niente tutto, sennò due pugni di bicchiere, andassi a cercare la piedi, ma dici di, che sono belle massicce. E vabbè, comunque, giù. Ogni tanto bisogna fare qualche cosa, non è che uno deve solo mangiare, poi la pasta e fagioli si intende, e mica è uno dei migliori che c'è, nuda mi si intende. fate fagioli, fate le zicche, io ci metto anche qualche patata e mezzo, esce però adesso su, che cavolo. E a me mi azzurci, quindi tutto è brodo, fa bene, dai. Io da poco mi sono fatto il brodo a profuso di pollo e dirò che il condimento che ci ho messo la fine del mondo, oh Giulio. E poi la sera mi sono scaldato il brodo e ho messo quelle, la minestrina con i fiocchettini che mi ricordava quando la buona di mamma me la faceva, troppo buono, un po' di formaggio, poi carota, cipolla, sedano, insomma ci metto un po' di tutto in mezzo. E ti dirò, sulla cucina mi arrangio abbastanza bene, tanto è vero che anche mio fratello ogni volta che viene qua dice cucini molto bene e mi piace mangiare da te, e allora bene, quando vuoi non hai problema. Ok Giulio, vabbè, ma in questa frequenza non vengono nessuno, io ho acceso per caso, ma a Gattobare un po' di assenteismo, beh. Molto Tony, molto assenteismo, e poc'anzi stavo parlando con Luca Flipper, stavo parlando, ma lui si sta sempre lavorando, sempre con un saldatore rovente, sempre un saldatore in mano, va. Per cui poi è entrato Bruno e allora Luca aveva un po' abbandonato un attimino, non so se poi rientra ancora. Intanto Bruno era nelle mie vicinanze perché è andato lì da Bricome, che poi non si chiama più Bricome oggi è Tecno Tech, una cosa del genere, hanno cambiato nome anche lì. Incredibile, queste multinazionali ogni tanto qui a Sassari cambiano nome, è un po' come di primavera il Lupin, da Lupin poi era diventato un altro nome, Giordo anche era diventato, da cui poi da Auchan, cioè da città mercato è diventato Auchan, allora si chiama Dona, Conad o cosa ci chiama. Sempre gli ambienti sono questi multinazionali o Tony. Ma non è che stanno cambiando Giulio, hanno venduto, la Auchan ha venduto, capito? Sono fatti i soldozzi. Giordo era, sapeva le panze in vetro al corso e quindi. Poi da Auchan ha comprato la Conad che è diventato Conad, capito? La UPI c'è sempre comunque, via l'Italia. Quindi, poi là c'era la Santa, sono la del Ratto via l'Italia, più giù, e adesso c'è la cosa, la Coi. Comunque. Andrà bene. Allora ti spiego perché anche Bricome ha cambiato il nuovo nome, sì. Perché hanno detto, è inutile noi stare 10-15 anni e poi aumenta sempre di più e quando un domani si licenzia la persona sto compete di là. Invece noi cosa facciamo? Cambiamo nome dopo 9-10 anni, quello che è. Quando cambia nuova l'azienda, nome, automaticamente ritocca tutto il TFR, si azzera, capito? E iniziano da capo, non so perché. È capitato a me quando ero più messato che ho lavorato per 10 anni, quindi cambiava il nome e automaticamente ti liquidavano e tu inizi da zero. Anche se capitava in 2 anni con una ditta, cambiava nome, non gliela fregava niente, capito? Perché non gli piace accumulare soldi con poi con tanto fare che sono belli, no? È tutto qua, lo fanno tutti. Mentre invece i cinesi, se hai notato bene, cambiano nome dopo 2-3 anni perché non pagano tasse. Sono figli di buona donna, capito? Loro, tu guardi come c'era quello negozio che si chiamava, non mi ricordo, il cinese, un ristorante. Ha cambiato nome dopo 2-3 anni. Tanti stanno sempre cambiando nome. Lo fanno però pagare tasse. Sono belloffi, poi loro lavorano con questi negozi perché riciclano i soldi. Perché il giro di rosa, lo sai, è droga, è mafia, è prostituzione. E soldi sporchi loro riciclano così, capito? E abbiamo questa attività, abbiamo incassato questo. Tutto sparso in tutto il mondo hanno i negozi. E beh, loro che lo possono fare, Giulio. Certo che sì. Sono furbi, vabbè. Magari gente che lavora, perché io seguo molto su YouTube, guardo molti filmati, guardo, no? e vedo questi cinesi, i lavori che fanno, ma tu li vedi lavorando per terra, io parlo addirittura anche di falegnameria, i cinesi falegname, lavorando per terra, nel cortile, all'aperto, con le scarpe, anziché avere le scarpe adeguate al lavoro che si fa, se ne ingaggi un ritorno in andare là che ti troncano bili, per dire. dire, no? E con l'infradito addirittura lavora, tutti brutti, tutti buh, io non lo so. Sono dei grandissimi lavoratori, questo bisogna riconoscerlo, ma forse perché lì c'è la dittatura che gli hanno insegnato a fare quel tipo di vita, non lo so, però comunque fanno i soldi, fanno e vanno avanti, a differenza di noi italiani, non ne voleva più nessuno di mestieri qui a Sassari, a Sassari, in Italia, non a Sassari. Stavamo parlando di quello poco fa, ha cominciato a guardare 2 anni e mezzo, io lavoravo dalla Fiorentina, che tu già hai conosciuto, quando io sono di elettricità che c'era al corso, facevamo gli impianti elettrici eccetera, e io andavo insieme a Artemalle, perché chi faceva i lavori allora era Mallio Artemalle, il padre di quello che era via Capodoro, la Fiorentina prendeva i lavori, andava al signor Artemalle e a me mi mandava insieme a lui in cantiere per fare lavori, è così che avevo imparato a fare elettricista, Otoni. C'era anche Gasperini, che era Pierosello, c'era Madeddu giù al corso pure, Artemalle, Silvia Capodoro, già lo so, l'ho conosciuto, e stai parlando di occasioni di anni fa, Giulio, vediamo un po' se questo Bruno è riuscito pure ancora dentro a frugare, a cercare il bricomane. Bruno ci sì, no, Bruno non è per avanti, lui sta guardando tutte le file, le ragazze commesse che ci sono, poi quell'offio. Bruno lo conosco più di 50 anni, a Bruno lo conosco da sempre praticamente, anche perché io allora da giovane, da ragazzo abitavo lì in Piazza Rovolento, lui abitava lì a 200 metri da dove abitavo io, scendendo di fronte all'autoparco, che c'è l'autoparco adesso lì del comune, e per cui ci conoscevamo, ci siamo conosciuti da allora, da sempre, anche se lui che hanno meno di me, però è di Bruno e Vicenza, mi lo mantengo a Bruno e Vicenza, come tutti del resto, Tony. Io mi ricordo quando lui trabaccava lì con le revisioni di carica, per revisionare la macchina, ma sto parlando la bellezza forse 35-40 anni fa, e a Bruno anche che non lo conosce, tantissimo tempo. C'era anche Macallè, c'era Prascopia, c'era ancora Italo Line, che trabaccava lui a San Camillo alle Caldaie, perché è stato anche a trovarlo lì, ma tantissimo tempo fa. C'era Giuseppe Trepido, poi c'era Fiuccina, Macallè e veniva Ienzi. Però la frequenza era più pulita, c'era molta più gente, Cilia, c'era molto più divertimento, e va visto patrugliate tu, e non entro nel manco, tu le fa la meraviglia mia, dico, ma a volte, come va a di un baracchino? Non va bene nessuno, a volte stavo un bel po' senza accedere, perché intanto dico, mi guardo la televisione, faccio prima, mi metto un bel documentario su Focus, o dove cavolo vedo, su 52 canale di Max, vedo delle cose che mi piacciono, delle costruzioni eccetera. Capito Giulio? Non c'è più nessuno, è sorpreso. Poi vai a sentire quello, non c'è mai nessuno, e se tu non entri, io provo a fiscare, non c'è nessuno, e spengo tutto, cosa faccio? Mi tocco chi mi ascoltava il QRM, tanto male spengo tutto e buonanotte. E beh certo che sì, è una musica QRM che non piace a nessuno, per cui non c'è motivo di l'acceso se non c'è nessuno a parlare. Sì, Macallè lo ricordo benissimo, il figlio abitava nella via dove lavoravo io, in via Nuccio Cevi, abitato per tanti anni, sicché tante volte veniva lì dal figlio, Macallè mi ricordo. Poi Macallè mi aveva fatto a me, proprio negli anni 70, 72, una cosa del genere, 73, boh, adesso non me lo ricordo, forse 74 era allora, e vabbè io ci sono da 72, però quando era iniziata la concessione, adesso non mi ricordo bene se era 73 o 74, e lui mi aveva preparato la domandina che poi io avevo firmato e spedito a Cagliari per la concessione, allora si facevano queste cose, oggi non esistono più. Poi andava sempre in giro con Rosa Verde, ti ricorderai di Rosa Verde, anche Giuseppe Intrepido mi ricordo, io ho seduto in macchina anche con Giuseppe Intrepido, nonostante che era invalido a un braccio, poveraccio, a Buluedo, e devo dire che guidava molto ma molto bene con un solo braccio, veramente, addirittura avevo fatto da portatore della Sassari, perché io mi sono fatto, un giorno l'ho incontrato lì e dunque ci siamo fermati a parlare, ma dai, dai, sto aspettando il boom, gli ho detto, o treno che mi porti a Sassa, ah, io vieni con me, ah, io sono andato, mi sono salito con lui, mi ha dato un passaggio da Porto Torre a Sassa, ti puoi immaginare, oggi li ho conosciuti tutti, solo che adesso non me ne ricordo nemmeno tanti nomi, io ormai sono Gubeccio, Tonì, sono Gubeccio, ma ho 81 anni compiuti, dunque la memoria comincia a farsi desiderare. Ehi, va bene, si picchia, dai, senti, era, ma non picchiano. Io il 28 settembre ho compiuto 69, quindi, però ti dico, non me li sento, la verità. Sì, poi c'era anche Martin Pescatore, non so se penso che l'avrei sentito. Poi sì, quello di Intrepido era Lucio al Mattino, sappiamo. C'era Buonanima di Rosetta, Renata c'è ancora da esserci ma non è in frequenza. Uranio del Malizzo, poi aspetta che c'era poi, non mi ricordo. Di Prascopi era Via Tempio invece, una zona anziana. Puccio per l'Orizzonte, poi Paolo Uffo e poi. Insomma, sto parlando di 45-48 anni fa circa. Io invece sono entrato nel 49 anni fa, entravo come Tonino a San Nicola, perché in quella zona, capito? L'ho tenuto con il mio attivo per circa un anno e mezzo, e poi è cambiato. E da lì sono in Kawasaki, a me è piaciuto, poi basta. La moto era sempre nella mia vena, che piaceva troppo. E qui adesso matto con la moto, finito, macchina e buh, tanto cosa ne fai. E niente, sì, era una bella ruota, c'era parecchia gente, si modulava, Giordino, Manicomio, poi di Itiri, poi c'era Torre Chopin, quindi uno di Vicky, insomma. Infine insomma, con tutti i CB Giulio, ragazzi, qualche duro fa miracolo, sì, perché a Cina non c'è mai nessuno, prima qualcuno mi ha detto, ma siccome è stata la gente se ne va in giro, bene giornata, sì, ma avanti siamo gli autonomi, è così, si continua a far caldo e no che non entra nessuno, e allora, non dite allora, non c'è nessuna frequenza, io non accedo che tanto so che non c'è nessuno, e buonanotte. Purtroppo è così, oggi non c'è più nessuno, ci sono tutti attaccati, pazienza, e cosa vuoi, ma d'altronde, vabbè, tante persone anziane di allora, cioè che oggi sarebbero state anziane, tante persone sono anche decedute, sono, per cui non è che possiamo, tipo, ad esempio, quello che faceva la guardia notturna al Banco di Sardegna, Nino Scandola al Sole, poi tanto per dare un altro nome, oltre a quello che era su quello che hai detto un po' canti, quello che lavorava a San Camillo, quello lo stesso è morto, ne stavamo parlando poco fa, che è il genero, cioè è il suocero era di Costanzo Orazero, sì, e poi tanti altri, tanta gente è deceduta, non lo sapete che è deceduta, Macallè che è deceduto, anche il figlio del Macallè so che è deceduto, che Tore alla Verde, so che anche lui è deceduto, cioè con noto Tore alla Verde anche lui, però l'altro, aspetta come si chiamava il figlio del Macallè, non me la mento più. Era una persona che abitava di fronte alla bottega dove lavoravo io, a 100 metri di distanza nemmeno. E, non me lo ricordo, non me lo ricordo. Quello ogni tanto si faceva in viaggio in continente a conoscere le persone che sentivo al baracchino di propagazione e altre persone sono passate. Vabbè, comunque, bravo Charlie, tutti e due fratelli, sono anche loro deceduti. Avrei voluto sapere di cosa, di Antonio Bernardini, se tu te lo ricordi, o se esiste ancora, se è ancora in vita, io spero di sì, era un'ottima persona, peccato era purtroppo era un invalido, però era un'ottima persona, Tony Bernardini, te lo ricordi? Castro, me lo ricordo, abitava più su di me, se vedi il commento, tipo piccoletto l'ho conosciuto, sì. La buona di Mario Mao, poi tra l'altro. Dunque, non so se è il figlio di Macallè che entrava, perché non vorrei, con anche la memoria mia non è solo la tua che sei vicio, però Aquila della notte, può essere. Break. Se c'è stato il break, sì, Aquila della notte, a me non mi veniva il nominativo, sì, Aquila della notte, esatto. Avanti break, credo sia Gianni. Gianni, ciao. Ciao, buonasera a tutti, dai. Sì, mi stavo ascoltando adesso. Queste persone le conoscevo tutte io, anche Macalle conoscevo. Sì, sì, sì, è una persona in gamba, era molto, molto gustoso come, nel modo come parlava, veramente. Quando poi si mettevano a discutere Macalle e Rosa Verde, tu l'avrai conosciuto lo stesso, Rosa Verde, erano, nonostante che Rosa Verde era un po' travagante, perlomeno quando beveva, quando era sano, cioè era in gamba, sapeva anche parlare, sapeva la verità, bisogna riconoscerlo. Facevano anche dei bei discorsi. E Rosa Verde era uno che si intendeva un po' di tutto. Era un metalmeccanico, lavorava a Porto Torres, d'accordo. Vabbè, una volta aveva avuto delle discussioni con Ciclone, con Giovanni Ciclone, mi è venuto in bottega tutto questo in faccia, tutto nero, tutti e due ci diede una via. Perché Giovanni Ciclone, buon'anima, anche lui è morto, l'aveva dato una bella sussa, perché lui quando si era ubriacato Rosa Verde ha cominciato a parlare male in frequenza e a offendere, come era di solito fare. Vai Tony. Ciao Gianni, ben entrato. Sì, purtroppo un tempo era per bene la frequenza, ma io raro mi ha già acceso così per caso e ho fatto atto su 23, non c'era nessuno, sto uscito su 10, ho uscito a te, si va a Bruno. Se no verrai su me avrei già spento, buonanotte. Comunque Gianni, dimmi come mi ascolti in radio, dovrebbe essere la più buona che mi avevi dato tutto tempo fa, ma non con preplicato, sono mai che normale, eh? Sì, ti ascolto bene tu, nella presenza, c'è una bella presenza la radio, ti sto ascoltando con calma, ti ascolto benissimo. E sto usando il presidente, praticamente quello famoso che era già mio, il Zaccheri, capito? Ma quello che c'aveva Emanuele? Yes, quello tratta canale. Ritornato a te? Capa, gliel'ho ripreso io, gliel'ho comprato e quindi abbiamo di nuovo a lui. Sì, perché tu questa qua dicevi che era una sempre una bella radio, ha fatto presenza, ultimo. Però sono riuscito ad attaccare lo Shure qua, mi innesca. Quindi niente, però non molto mi arriva anche un altro apparato, dovrei uscire bene con lo Shure. Ehi, ehi. Sopravvivi. C'erano tutti i canali occupati, ma c'erano portanti, c'era di tutto e di più, ma perché anche adesso qualche portante c'è, però non come prima, in magazzino. Io mi ricordo a canale 15 c'era Portobello, io Piero Drago e Torre Chopin, e mi ricordo sempre un particolare che mangiava una bicciata di risate. E Piero Drago gli ha proposto a Torre Chopin due altoparlanti per la macchina. Torre Chopin aveva la bianchina. Ti interessa un torre? E cosa mi rivolse? Ti attacca la macchina, ma dove mi attacco? Ma il sportello, che domani c'è così macco? E si incazza Torre Chopin e fa, ma se non c'ho neanche i pannini dei sportelli, ma che comincia le dica? Oh, yeah. E a Torre Chopin l'ho visto da poco. Non mi aveva riconosciuto, gli ho detto, ma sei Torre Chopin, tu sì, e tu chi sei? Sono Gianni Lupiuro. Ah, tu Gianni, già lì mi ha detto, adesso abita i punti mi pare. Poi Chopin lavorava nei fornitori di Prizzolato, vedi, Carmine, la moglie Popilla, e poi chi c'era, aspetta, Stella Albina, un'altra aveva un negozio di merceria per la Teresa. Giulio, te la metti, sì? Sì, Stella Albina. Eravamo vicini di attività, tu puoi immaginare, Via Castaneda abitava, anche lei è deceduta purtroppo, un'ultima donna, veramente in gamba, una gran bella persona era. Anche Pupilla, sì, anche Giovanna, la moglie di Coso, cioè Bettina praticamente, Giovanna di nome, Bettina, la moglie di Gavino, Gavino Passero Solitario, e tutta gente, Mario Mau, vabbè, Mario Mau sono cresciuto io praticamente con Mario Mau, si può dire, pensa che abitavamo noi a 50 metri l'uno dall'altro, nel Sassa di Vecchio, e mi ricordo mia madre, allora in quei tempi si usava a fare queste cose, preparava per chi aveva necessità, preparava perché grazie a Dio a casa non è mai mancato niente, però dove abitavamo noi c'erano delle persone che avevano necessità già, e allora mia madre, che era tanto generosa che tu non hai un'idea, che era capace di toglierselo lì dalla bocca per darlo a quelli del vicinato, e faceva anche queste cose, Gianni. Sì, ma l'avevi già letto, sì. Sì, me li ricordo tutti, un brizzolato, tutti quelli che avete nominato, me li ricordo tutti. Poi c'era Fiocco di Neve, te lo ricordi Fiocco di Neve? Quella è entrata dopo però. Sì, la maestra Fiocco di Neve, sì, è entrata dopo. Sì, brizzolato, anche lui è deceduto, avevo saputo l'avevi già. Anche lui è deceduto, brizzolato, eh. Oh, io di persona non lo conoscevo, però lo sentiva la parecchio, dai. Ci sentivamo la parecchio. Ce n'erano tanti prima. C'era anche, non so se ve lo ricordate, Canarino. Canarino, donna cosa, nonna Belarda, il figlio Mario Piedigatto, e veniva niente. Io avevo una volta, avevo una specie di libro, e c'erano tutti i nominativi, chissà magari se ce l'ho ancora da qualche parte, sarà conservato in mezzo a tutte le riviste, eccetera, che ho ancora qualcosa. E sicuramente se lo cerco lo trovo, con tutti i nominativi di allora o Gianni. Poi non parliamo di quelli che c'erano a Porto Torres, Tocai, poi marito e moglie, quelli che una volta, mi ricordo, la moglie andando per Castelsardo aveva assistito ad un incidente e gli era morto fra le braccia una persona che aveva avuto un incidente, e lei chiamava il malattino per cercare di far intervenire qualcuno, eccetera, e a questo so che gli era morto fra le braccia questa persona, non che aveva avuto un incidente con lei, però era evidentemente qualcuno che conosceva anche. Sulla strada per Castelsardo, Gianni, ti ricordi questo particolare? No, sinceramente no, questo particolare non lo ricordo, però c'era Satellite, e poi c'era, come si chiama, Angelo Asso, tutti quelli lì, non me li ricordo tutti quanti io, li ho anche frequentati con le persone, e vabbè Silvestro, tutta gente che io conoscevo. Carciofo, poi quella marito e moglie, non mi ricordo come si chiamano, credo che fossero continentali, però lo abitavano a Porto Torres, aspetta, non me lo ricordo, sempre mi sfugge il nome di quella donna, e pensare che ci ho parlato per anni e anni e anni per lì, tu te lo ricordi Tony come si chiama quella donna di Porto Torres, che parlava anche il marito, insieme a Toccai, Porto Torres, eccetera. Ma io mi ricordo di Tonino Alzana, mi ricordo che abitavo in Villaggio Satellite, sopra Tabacchino, sono andato anche a conoscerla. Non me ne ammetto io. Adesso ti nomino un nome di un cimista, era morto, ma vera c'era già Vic prima. E senz'altro te lo ricorderai, la buonanima di Luisito. E so anche dove abitava. Sì, Luisito è il padre di Franco Sassue. È morto Luisito, abitava in Viale Sicilia. Cappa, di fronte al coso della questura che adesso hanno fatto il Palazzo Nuovo. Infatti io una volta avevo dato una sgridata ai ragazzi di allora, no, vabbè, erano tutti ragazzi, dunque lo gabbo li fumava. Cosa facevano? Andavano a mettere la portante a Luisito. Cosa facevano Gianni? Sai dove se ne andavano per mettergli la portante? In Viale Porto Torres, dove c'è quello della musica, scendevano lì sotto, scendevano e andavano sotto casa di Luisito, andavano, lui abitava in Viale Sicilia, sicché gli mettevano la portante lì a Luisito, lo facevano incavolare, infatti gli avevo sgridato una volta, adesso i ragazzi di allora, già mi capisci quali ragazzi erano, io gli avevo fatto una sgridata, non vergognate fare una cosa del genere, che è un uomo grande che può essere vostro padre, quello, e voi andate a fare queste cose. Da allora non ci sono più andati, però immagina che possono essere, Gianni, oggi sono grandi anche loro, oggi sono uomini grandi anche loro, e qualcuno ha anche una bella attività. Gianni, come non sei più entrato? Io c'era anche ieri con Natalino, sì che sto entrando, c'era anche ieri con Natalino, non entra nessuno, siamo stati fermati per un po', poi lui ha dovuto fare roba e se n'è andato, mi ha detto che aveva parlato con Giulio, fuori non è stato nessuno. No, io sto entrando. Quando c'è gente io entro, io accendo sempre tutte le sere, le accendi da parete, gli apparati per non rovinarsi. Anche io voglio accendere, ma se c'è Gianni non posso. Ah, sì. Questo è quell'uragano che c'era in America. Ma come hai riuscito a aprire come me? Zittanato gira. Ah, con le commesse ieri no? Le commesse mi hanno cacciato via, allora ho detto rientro in sequenza, cosa posso fare? Niente, io accendo ogni tanto già, non c'è nessuno spazio, dopo spiego tutto che tanto. E voi, mi guarda la TV. E cosa vuoi fare? Tanto. E voi, vabbè. Niente, sempre le solite cose. Sta entrando meno gente, prima c'era più gente, ma sempre di meno. Allora, ma cosa vedi? Tu, Bruno, non è che devi andare a Brico a comprarti qualche cosa che ti sirvi. Tu devi andare nei negozi dove si compra roba buona da mangiare. No, io vado nei negozi dove sono le commesse belle. Poi se me ne frega da mangiare a me. Poi gli altri diventano maiale. Sta attento perché guarda che la 250 c'ha anche un baracchino piccolino in ascolto e come dici poi c'ha il mattarello a me. Lo so, c'ho anche il baracchino a casa, lo so che mi controlla. Lei è d'accordo, lei lo sa che un attimo c'è la polizia davanti. Senti, sei d'accordo, senti dietro la gente, lo so. Avanti, giù. Ok. Bruno, a proposito, dammi notizie di Aldo. Come sta Aldo, suo fratello, Bruno? Aldo sta bene, sta facendo l'agricoltore. Sempre in campagna ormai, da quando è andato in pensione, a 10-15 anni, è diventato un agricoltore, un'azienda, a Sacchetto e ormai sta lì, sta bene, ha 74 anni, mi pare che sta. Niente, con la sua donna, la moglie e le due figlie, meglio di lui, chi sta meglio di lui. Ah beh, certo che sì, sta bene sì. Non mi ricordo, adesso mi è venuto in mente una volta, no, in piazza di addestramento, il Bruno, c'era uno che a frequenza metteva sempre la portante e avevamo avuto la brillante idea di uscire in macchina a cercare chi era questo portantista e siamo finiti lì in piazza Vetramento, il segnale era lì, sai, allora si facevano queste cose, si andava a cercare più che altro e quando ci prendeva in giro da qualche finestra ci vedeva, mi guarda che tu adesso stai girando attorno alla macchina, butto cretino che non sei fatto. Diceva, noi ascoltavamo dal baracchino, dalla macchina, no? E chi era? Non siamo mai riusciti a capire chi era, era in piazza Ventramento, e c'ero io, Tonio Dai, tuo cognato, Aldo, c'era, e alcuni altri persone che non mi ricordo chi fossero, forse c'era anche tu o Bruno, non lo so, non me lo ricordo, la verità. Ma ricordo cose che abbiamo fatto tante, allora c'era tanta gente, si girava, qualcuno è stato pizzicato anche lì, qualcuno ha preso schiaffi, a qualcuno gli hanno bussato la porta a quei tempi, adesso non faccio nomi perché uno di questi è anche morto, ma anche lui ha pigliato i giaffi di quelli che mettevano la portante. E a Don Diego non ci ha chiamato il carabinieri una volta, sempre per frequenza parlava male, parlava tutto scurrite in una maniera, leggeva, guardava i giornali di forno e poi descriveva tutto quello che vedeva. È perché è altalena, ve lo ricordate? Mi ha rotto le palle una volta e sono andato a farmi l'altalena col cavo suo dell'antenna, vi lascio scherzando. E pure l'altalena era in gamba, parlava la notte fino alle 3-4 del mattino, lui, Corsaro, quella di via Le Porcellana, non mi ricordo mai come si chiama, che aveva grazie a Dio un sacco di figli, anche lei aveva il marito alla notte dormiva e le parlava a baracchino per stare 4 di Manzano. Ah, Renata, Gaffa, se mi ricordo, l'ho portato anche il ciuccetto, di notte sono riuscito a comprare il ciuccetto che l'aveva smarrito, la figlia piccolina. Sì, Renata, Rosetta e l'altra c'era il trio, io ero in mezzo, li mettevo a portata e tutto non ci parli più per un anno, perché mi ha rotto niente le palle. Dopo un anno sono entrato e ho detto a me, a tale, adesso già puoi parlare, un anno è passato. Come hai aperto bocca, hai detto il parolaccio e me, tu hai finito, sono andato una notte a casa sua e l'ha ciclattato l'antenna, vai ci mi ha messo. Incredibile, anche allora c'era così. Però non avete mai conosciuto voi, vi ricordate dell'elettricista di via Rosello, via Rosello, Gasperini, anche lui parlava al baracchino, non mi ricordo però il nome nativo che aveva, e nemmeno il nome a dire la verità, che poi tra l'altro sono stato lavorando un mesetto da loro, stavo, io ho entrato per fare l'elettricista, invece mi aveva messo nel reparto dei motori, perché facevano anche avvolgimento motori, ma a me questo non mi interessava, io facevo l'elettricista e volevo fare quel mestiere lì, quando poi aveva chiuso la Fiorentina dove lavoravo io, perché avevo fallito e un giorno sono arrivato in ufficio giudiziario, signora mandi a casa i dipendenti che qua dobbiamo chiudere e così via. Allora sono entrato da Gasperini, però mi sono posto nel settore di avvolgimenti motori, a me non mi interessava, Tony, vai tu che sto parlando delle società, un po' ti interessa. No, sai, questo periodo non lascia più fugare in favità di città. Io mi ricordo anche di ripunti, non so se te lo ricordi, Charlie Brown. Era Bonari, ma anche di Elio Bravo Charlie, che c'era, non so se era il fratello che stava per male, non me la penso. Sì, e a ripunti c'era anche Marco su tre, c'era Bigodina, c'era il padre di Bigodina, a quello le facevo anche da ponte, perché il padre di Bigodina parlava con una cosiddetta amante, allora si diceva, ma lo diceva lui anche in frequenza, per cui no, non era un segreto, e non si sentivano molto, io riuscivo a sentirla bene questa donna e qualche volta gli ho fatto anche da ponte. Ti ricordi di Bigodina o Gianni? Il fratello di Elio si chiamava Mario Bravocciardi, che praticamente era un ex carabiniere che aveva avuto un incidente in servizio e era rimasto paralizzato. Cappa Rogero, adesso mi sono ricordato. Poi c'era anche Romeo 33, cieco. Non so se è ancora vivo pure, ma era un bravo massaggiatore-terapista all'ospedale. E vabbè, poi insomma ce ne sono tanti, dai. Non monopolizziamo su questi ex CB, diciamo, poveracci, buon'anima da loro, quindi. Oh ragazzi, a proposito, sono le 7:15, devo fare qualcosa, se no è casina, forse non dà. Io mi devo cercare qualcosa di interessante per poter uscire meglio, diciamo, da questa stazione, tutto qua. Va bene, dai, buon proseguo, vi ascolto. Ciao Gianni, ciao Bruno, ciao Giulio, poi eventuale ascoltone, non lo so. Bene, Meda, riprendi Bruno e fai girare. E ok, non so se sto uscendo male, se sta tratti. Ciao Tony, ci sentiamo. Riprendi Giulio. Ok, ciao Tony, ciao. Sì, Vera 3 stavi dicendo, sì, anche lui è morto, il padre di Antonio Riserva. Anche lui purtroppo è morto. Vabbè, poi c'era Vera 1 anche di Via Lomberto, quello che faceva la magista. Gianni già se ne ricorda comunque. Vai Gianni per salutare Antonino. Ciao Tony, grazie per la chiacchierata. Alle prossime, fate sentire. Vai già. Ciao Tony, ci sentiamo. Buona Mugodis. C'è anche Vera 2 che sarebbe quello della Croce Verde. Ciao Vera 2. Ciao ciao. Vera 2 era, esattamente. La magista che c'era in Via Lomberto, Vera 2. La magista di Via Lomberto, sì, l'altro era chi era? Vera 1 allora era. Quello che faceva il Carratristi, come si chiamava? Andrea mi sembra. Vai Bruno. Sono passato sotto casa di Gio Maria, mi sta coprendo, non ti vedo come sposto. Gianni, non l'ho sentito, no, c'è il QRM, non c'è la fame da fonte. Che è passato sotto casa di Gio Maria, l'ha slatterato, l'ha piccola, l'ha azzerato tutto. Ah, ho capito, no, perché non l'avevo sentito. Vabbè, anch'io dopo devo chiudere, che devo telefonare a mia figlia per vedere se è arrivata, là, che è partita stasera a Bologna, è andata a cantare, per cui dovrebbe arrivare adesso più o meno verso le 7:30. Vabbè, riprendi già. E anche mia figlia a Bologna, è partita da poco, era qua in ferie, vabbè. Abitato bene, ci viene un mesetto, ci viene a trovare, poi parte. Solo se è sempre con Cuccio che viene lontano, se ha bisogno di qualcosa, se è sola lì. Beh certo, è chiaro che la devi sempre chiamare, così chiedi se ha necessità di qualcosa. Sì. No, mia figlia è partita stasera con l'aereo, non lo so di che ora, forse deve essere ma dovrebbe atterrare intorno alle 7:30, credo, non lo so di preciso. era tutto. E ti sei babbo. Ed è una cosa bella, no? io sono tornato in una maniera impressionante, per carità, io da solo mi vergogno quando canto, però alle volte faccio qualche battutina così per far ridere a casa. Mamma mia, dice, adesso piove, mi fai carità. E vabbè, non piove, dai, già sono zitto, così almeno non piove. Sì, ma se uno canta continuamente con la voce la educa, capito? Riesce a educarla. Naturalmente ci sono delle canzoni magari che sono più adatte a una persona e canzoni che sono adatte più a un'altra. Magari quelle con gli acuti, ci sono delle persone che hanno degli acuti altissimi. Io ho un'amica che canta, che è bravissima, proprio, sembra un tenore cantante. Lo faccio quel Rix, gente. D'accordo, buon quel Rix, allora. Sì, non è che sono tutto stonato, diciamo che mi manca la voce. Mi manca la voce, io ho respirato troppa polvere e troppi odori di vernice, per cui dopo un po' non ce la faccio più con la gola, per cui ho sempre avuto, infatti intanto mi si abbassa la voce, allora dovrò prendere qualcosina così, tipo qualche caramellina da menta, tutto per cercare di schiarire, eccetera, eccetera, soprattutto quando parlo molto, no? Allora mi si abbassa la voce, come senti? Già da adesso che sono già un'oretta parlando a baracchino, perché prima c'era Luca, poi abbiamo fatto Bruno, poi Tonino, adesso tu, e la voce mi sta già abbassando. Vabbè, bisogna bere o mangiare frutta, io quando mi si asciuga la gola mi mangio un arancio, mi porto un po' di latte così crudo dal frigorifero. E così mi ripristino tutto, la illuminisco di nuovo. Lo so, però io ripeto, ho respirato più di 50 anni di polvere e di vernici, io già, è probabilmente quello che mi ha danneggiato, vabbè, a parte tutto quello che ho avuto poi in faccia, ma caridai, tutti i malanni che ho avuto e che continuano. E tutto, speriamo bene, quello vuoi dire, anche ultimamente, ma comunque, che Dio abbia terra di me, cosa vuoi dire? Perché cosa hai avuto oggi? Non ho saputo nulla. Sì, ho cominciato a avere dei problemi, pareti facciali e tutte queste cose qua, ad incirca 50 anni, avevo 50, forse 53, 55, non so. Ho cominciato a quell'età e dunque mi ha danneggiato una bella parte e poi adesso diciamo ho avuto un altro accidente dall'altra parte e dunque sta completando la situazione, forse devo fare una cura, tutta la vita devo fare una cura, devo fare eccetera eccetera, purtroppo è così già. Almeno per quanto riguarda la salute, oltre al fatto del tumore che avevo, e grazie a Dio almeno quello se non altro, speriamo che non mi ritorni, e quello se non altro sono riuscito a eliminarlo, o meglio i medici sono riusciti a eliminarlo, adesso vediamo se la mia vita continua tranquilla o se devo soffrire ancora, già boh. Sì, dai, già. Magari è stato solo un periodo che dopo il temporale, dopo la tempesta viene anche il sole, mi giuro, non è che sia sempre così. Già ti rimetti in sesto, dai. Non c'è problema. Vabbè. Purtroppo. Speriamo che continui almeno di lasciarmi quello che mi serve a questa età, tutto lì. Pazienza. Se lui vuoi vedere quando ero giovane, basta guardare la fotografia del telefonino già, guarda come ero io quando ero giovane. Datemi un'idea, è tutto, ed ero così rischiava l'età di 50-55 anni più o meno. Poi ecco, l'anno è cominciato, tutte le maledizioni l'anno è cominciato. E giù, si cambia la vita, non si sta sempre giovani e tanti. I miei dolori c'è anche io, la mattina quando mi alzo sono lucino, tutta dolori, mani, braccia, collo, guarda, sono così così per andare a farmi fare quelle manovre da un osteopata e però ho paura, capito? Ho paura che mi faccia male, perché su internet io vedo che gli osteopati fanno queste manovre che ti fanno passare il dolore, ma sono... fanno tutte manovre a mano, no? Di colpo, tra che si sente, e poi la persona si sente leggera, di nuovo, come se non avesse mai avuto nulla. Vabbè, quello sì, ma comunque, vediamo bene, quello volete dire. Adesso l'altro controllo lo dovrò fare a dicembre, sì, l'altro controllo per quanto riguarda per quello che mi hanno operato. E poi vedremo un po' se continuare, però ne ho ancora un anno e oltre di controllo, sempre di prevenzione. Devo dire che poi fisicamente nel corpo sto bene, adesso il problema è in faccia già, è in faccia, vabbè comunque. Speriamo bene, riprendi. Che faccia che avete avuto? Un'altra panici facciale? Più o meno una cosa del genere, anche da poco, risale a 4-5 mesi fa, una cosa del genere, comunque, non so cosa dirti, eppure io non ho mai voluto male a nessuno, non ho mai fatto male, del male a nessuno, evidentemente il mio destino è quello, non so cosa dirti, già pazienza. Vedi, dai, sono cose che magari passano, dai, pure, e non te ne ricordi più. Bisogna vivere la giornata giù, non si sa mai, non sai com'è, no. Oggi ci sei, domani no, è così. Cioè, conosco gente giovane, con due figli piccoli, questo ragazzo, due figli piccoli, la moglie è giovane, 35 anni, lui mi pare che ne avesse 40, gli è venuto un infarto e ci è rimasto. Lo so, ma io diciamo che ho incominciato 12 anni fa, ho incominciato prima con l'appendicite, poi 5 anni fa, 4-5 anni fa, con la vescica, eccetera, eccetera. Infatti, 12 anni fa mi ricordo come se fosse oggi. Allora, in quel periodo era morto anche Mario Bonanima, e anche Emanuele Porto Pilato. Proprio in quel periodo io ero ancora ricoverato. Due giorni dopo che avevano fatto il funerale a Porto Pilato, ero uscito io, mi avevano dimesso dall'ospedale, ma quella era una fesseria, ma intanto me ne sono fatto un mese circa, perché non riuscivano a trovarmi qual era il problema. Dunque, anche se io non avevo dolori, niente, ma c'era questo dubbio, c'era, e cos'era? Era l'appendicite che era coperta dal grasso, non si vedeva nemmeno con gli strumenti dell'ospedale. Allora alla fine mi hanno dovuto fare tre buchi in pancia, mi hanno dovuto fare, e mi hanno entrato una telecamerina, mi hanno entrato e si sono accorti che era l'appendicite quasi in corso, come si chiama, quando sta per scoppiare poi il problema, adesso non mi viene in mente com'è. Avevi qualche faccia? Un qualcosa del genere, come non mi ricordo come, ma per tonito, una cosa del genere, così, cioè un'appendicite che non è curata, poi si trasforma, adesso non mi ricordo in quale altra malattia, mi hanno preso in tempo praticamente, perché era già proprio al limite, era. Si trasforma in peritonite, sì, appendicite. Mia sorella l'hanno operata di urgenza per quella, è andata a casa. casa di un'amica a Osilo e avevano molta confidenza e gli ha detto: Anna, scendi a prendere il vino giù in cantina. Mia sorella è andata col boccione per prendere il vino, non saliva più, sono scesi giù, l'hanno trovata in terra, l'hanno portata all'urgenza all'ospedale, l'hanno operata all'urgenza. Lo so, era una cosa che in giro di pochi giorni ti rimettevano, invece a me non mi trovavano il problema, non mi trovavano, però vedevano che avevo nella parte del ventre, nella parte bassa del ventre, sulla destra avevo una cosa molto dura, no? Il dottore poi aveva qualche dubbio, aveva, alla fine nessuno strumento dell'ospedale era riuscito a scoprire che cosa era. Ed era proprio il motivo per cui era coperto dal grasso, era coperto e dunque hanno dovuto allora farmi queste tre buchetti nella pancia, uno all'altezza della vescica, uno all'altezza dell'ombelico e un altro sulla sinistra. Hanno entrato questa sondina con la telecamera e hanno visto, e allora me l'hanno assorbita, me l'hanno, e poi mi hanno messo un punto per ogni tre buchetti, che hanno fatto un punto a ogni buco. Dopodiché, dopo una settimana, sono uscito, sono guarito, capito? Sì, sì, sì. E anche a me l'avevano fatto, quello mi hanno operato al ginocchio, mi avevano fatto così con la telecamera, mi hanno operato così, non mi hanno aperto, mi hanno fatto un buchettino e con la telecamera c'aveva anche una specie di pinza e mi hanno tolto il menisco. Così oggi la tecnica, e poi hanno cominciato di nuovo i problemi a 5 anni fa, 4-5 anni fa, con la con lo tubo di scarico idraulico. Io per ridere dicevo così, e cosa è stato operato al tubo idraulico, alla vescica eccetera, via. Vabbè, comunque è andata così, speriamo bene che continui. Sino ad oggi, grazie a Dio, sembra che no, la cura che mi hanno fatto sembra che abbia fatto effetto, però devo rimanere ancora, mi sembra, uno o due anni in osservazione sempre già. Vabbè Giulia, quello lo fanno per prevenzione, dai, è normale, però grazie a Dio, dai, da quella lì non ti hanno trovato nulla. No, infatti ho fatto tutti i controlli, sino ad oggi ho fatto tutti i controlli, ho fatto e sembra che vada bene. Adesso l'altro controllo ce l'ho a dicembre, alla fine di dicembre, primi di marzo, di gennaio, di nuovo l'attacco devo fare, vediamo un po' se risulta sempre a posto, non lo so, speriamo bene, cosa vuoi dire? Siamo nelle mani di Dio. Speriamo che vada tutto bene, perché mi pare che stiano andando tutto a rotoli giù. Non ho capito l'ultima frase, già. Ho detto, speriamo che vada tutto bene, perché sta andando tutto a rotoli, oltre la salute, dico. Inquinamento, guerre, questo e quell'altro, stacca di dai. Purtroppo questo è un periodo un po' difficile per l'umanità, purtroppo è così, adesso. Speriamo bene, già. Bravo, dai, già ti devo lasciare, che sono già alle 8 o meno 25. Faccio uno scudo a mia figlia per vedere se è atterrata, così mi dà notizie, sempre che sia in orario l'aereo. Bravo, già, grazie per la chiacchierata, se coincide ci facciamo una chiacchierata, magari domani, dopodomani, insomma, quando coincide già, per me è sempre un piacere, figurati. Ok, già, ascolto Finalino, ringraziandoti delle quattro chiacchiere, e poi chiudo, ok? Ma vai tranquillo, giuro, là, vai, che è più necessario sentire tua figlia, vai. Ci sentiamo quando capita, io accendo, se tu volete, a me fa sempre piacere, lo sai che io la passione ce l'ho sempre avuta, sempre ce l'avrò. Sì, è la stessa cosa, ti dico io, è la stessa cosa, anch'io accendo sempre, molto di tanto in tanto, tante volte, vabbè, io sono giù, la casa più rivede qua, e dunque la radio qua su in alto, e devo salire per salvo, accendo, ascolto, vedo un po' se c'è qualcuno, faccio un giretto sui canali, non c'è nessuno, allora chiudo di nuovo e me ne vado giù in tavernetta, mi metto davanti alla televisione, oppure mi metto nella sala, al computer, insomma, sempre per passare il tempo, poche parole, comunque in un modo o nell'altro. ancora per le quattro chiacchiere, già, ci sentiamo. Ciao Tony, se sei ancora all'ascolto, alle prossime, fatti sentire anche tu. Ciao, ciao, già, riprendi. Chiudo, lo porto fino a lì, vai. Sì, va, ciao Giulio, ciao anche a Tony, se è ancora in Twitch. Io adesso vado a portare il cane, dai, approfitto, lo porto giù. E lui mi sta già guardando, come dire, aiuto. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.